festa stasera. E quanta gente per strada. E lì sul palco un cantante che canta la nostra canzone d'amore. Del testo che non ci lasceremo mai, invece tu mi hai lasciato e muoio ascoltando la nostra canzone. E solo io cammino per la strada, poi arriva una compagna, la mia ombra, chissà in quale parte del trovi, perché vorrei camminare insieme a te. Se fatto tardi sono le tre, ma io non andrò a dormire. Suona il motivo della nostra canzone d'amore. Io noto solo che mi manchi, così io piango e anche la nostra canzone finisce piangendo. E solo io cammino per la strada, poi arriva una compagna, la mia ombra. Chissà in quale parte del mondo tu ti trovi, perché vorrei camminare insieme a te. Chissà in quale parte del mondo tu ti trovi, perché vorrei camminare insieme a te.